gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Prontissimi per una nuova puntata di I Love Italy qua su Radio Miami International. Bentrovati a tutti da Andy Mangiarotti, prendiamo la linea qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese in terra italiana, siete su Double RMI, Radio Miami International. Questi sono i 15 minuti in lingua italiana che potete sentire su tre frequenze, su kHz 7730, su kHz 5850 e su kHz 15770. La trasmissione va in onda in svariati orari e l'appuntamento principale è quello del sabato sera, del weekend, ma poi abbiamo anche degli appuntamenti in giro per la settimana. Ringraziamo quindi Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ci consente di essere in onda qua su Radio Miami, su questa grande radio che da sempre trasmette e, permettetemi il termine, rende grandi le onde corte. Salutiamo anche tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano nei vari podcast in giro per il web. Alcuni sono su archive.org, gli altri li trovate in giro sul web. Andrea in diretta con voi per i nostri 15 minuti. Quest'oggi doveroso ringraziare gli amici e le amiche che ci hanno mandato o dei saluti o dei rapporti di ricezione. Lo facciamo subito appena dopo il prossimo jingle in lingua spagnola. Querida oyente, se están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. La Voice d'Italia, quindi avete sentito tutti i vari contatti per interagire con Andrea o direttamente dal sito della radio che ci ospita, doublerm.net, oppure su voiceofitaly.it oppure su andreamangiarotti.com per richiedere le cartoline QSL oppure semplicemente per salutarci. Ora però apriamo l'angolo dei saluti, quest'oggi veramente molto corposo, diciamo così. Iniziamo ringraziando l'amico Andrea che ci scrive da Palmanova in provincia di Udine. Lui, oltre ad aver ascoltato le onde corte, ascolta un po' tutti i miei progetti, ha ascoltato la mia piccola web radio, Radio Oltrepò Pavese, potete vederla al sito radio3popavese.com, e mi chiedeva i mitici adesivi della radio, come si usava in Italia negli anni 70 e negli anni 80. Solitamente le radio facevano degli adesivi che poi venivano mandati agli ascoltatori. Cari Andrea, non sono ancora pronti gli adesivi, non ci ho ancora pensato, però intanto ti mando anche a te una bella cartolina che raffigura un po' tutte le mie trasmissioni, che poi è anche la cartolina ufficiale di I Love Italy. E ora salutiamo il prossimo amico che ci ascoltava, da dove ve lo faccio dire da questo jingle. 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要练习意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。Con questo jingle tutto cinese salutiamo l'amico Ding Lun che ci ascoltava dalla Cina, spesso e volentieri ci manda dei rapporti di ricezione e ascolta un po' tutte le trasmissioni di WRMA. Grazie a Ding Lun che ci scrive: cara WRMI I Love Italy, sono un ascoltatore della Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano sulla frequenza dei 5850 kHz, orario UTC 01:015-01:030 UTC, il segnale è molto forte, effetto di ascolto è molto chiaro. Lui ha ricevuto le nostre trasmissioni il giorno 8 maggio 2024 con una radio Texun PL310ET, luogo di ricezione la città di Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. E il suo simpo è 43434. Mi piacciono molto i programmi della vostra radio, spero di ricevere la cartolina QSL di I Love Italy. Devo essere sincero, caro amico Ding Lun, te ne ho già mandata una, probabilmente mi facevi notare che non l'hai ricevuta, non ti preoccupare, te ne rimando subito un'altra. Grazie per il tuo rapporto di ricezione. E ora andiamo avanti con i prossimi amici che ci hanno ascoltato appena dopo il nostro G. You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Rimaniamo sempre nella bellissima Asia, dalla Cina ci spostiamo nella bellissima e incantevole India. Ci ha scritto un amico, per l'esattezza ci ha scritto Rainash Kumar. Caro amico, ti invio il rapporto di ricezione. Il rapporto di ricezione è riportato appunto di seguito. Per favore, controlla i dettagli se sono corretti e se è possibile inviarmi una cartolina QSL. Poi mi lascia il suo indirizzo postale e così via. Caro amico RB Kumar, grazie per il tuo rapporto di ricezione. Ti manderò la cartolina QSL. Ora passiamo ai dettagli. Ci ha ascoltato il giorno 10 febbraio 2024 sulla frequenza dei 15.770 kHz via WRMI, orario di ascolto le 20:45-21 UTC. La sua valutazione è molto buona. Aspetto la tua lettera, ti prego di inviarmi anche del materiale stampato con alcune cartoline illustrate. Sicuramente ti invierò la cartolina QSL, caro amico RB Kumar dall'India. Andiamo sempre avanti, questa volta sempre con un amico invece che ci ascoltava da Salamanca in Spagna, Diego Garcia Diaz, data d'ascolto il 4 maggio 2024, orario di ascolto le 20:45-21 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz, apparecchiatura Radio Texun PL660, località Salamanca in Spagna. Mi lascia proprio un report molto dettagliato di ciò che ha ascoltato, la canzone di intro con la mia voce, tutti i dettagli, e lui ci propone invece, il nostro amico Diego Garcia, un simpo 43333. Interferenze e rumore, specialmente alle ore 20:47, condizioni meteo locali nuvoloso. Mi piacerebbe ricevere una cartolina QSL o una conferma di questo rapporto, se è possibile. Grazie mille per l'attenzione, ma grazie a te, caro Diego Garcia Diaz, ti manderò la nostra cartolina QSL al più presto possibile. Spero che apprezzerai. E poi abbiamo anche Ram Babu Kumar, caro amico, ti invio il rapporto di ricezione. Ci ha ascoltato sulla frequenza da 15.770 kHz, orario d'ascolto le 20.45 21 UTC, dati di ascolto, ci ha ascoltato il 10 febbraio 2024 con una valutazione molto buona. Aspetto una tua lettera con dei gadget, con immenso piacere. Ram Babu Kumar, sempre dalla bellissima India. E ora andiamo avanti con un altro amico che ci ascoltava da un'altra bellissima zona. Ci spostiamo, vediamo dove. Ah, ci spostiamo nel bellissimo Uruguay. Però prima ci sentiamo questo jingle in lingua coreana e così salutiamo tutti gli amici che ci sentono dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud. 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 WRMI.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다. E con questo bel jingle in coreano salutiamo quindi tutti gli amici che ci sentono dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud. Ora vi porto nel bellissimo Uruguay, Montevideo. Mi scrive Gabriel Gomez, il mio nome è Gabriel Gomez, dal 1984 sono un radioamatore con tanto di codice indicativo e mi lascia appunto dei dettagli e anche il suo blog personale che è molto bello. Mi piacerebbe confermare di aver realmente ascoltato la vostra trasmissione, se gentilmente mi potete inviare una conferma di ricezione. Ma certo, caro amico Gabriel, lui ci ha ascoltato il 10 febbraio del 2024, una data molto proficua, quella del 10 febbraio 2024, sulla frequenza dei 15.770 kHz via WRMI, orario di ascolto in formato UTC, ci ha ascoltato alle 20.45 sino alle ore 21 UTC, dato di ascolto 10 febbraio 2024, luogo di ascolto Montevideo, Uruguay. Il suo simpo è 43343. Anche lui mi fa un report di ciò che ha ascoltato all'interno di I Love Italy e poi mi scrive: la mia passione per il radioascolto e il radioascolto internazionale nasce con la radio, è un hobby veramente interessante, non solo sotto profilo, diciamo così, di un hobby vero e proprio, ma anche sotto un profilo scientifico. Mi scrive: ha scoperto l'ascolto di stazioni radio un po' da tutto il mondo negli anni 80 e poi mi spiega anche il significato appunto del termine radioascolto, eccetera eccetera. Apprezzerei se mi inviaste materiale rappresentativo della stazione, che sarà molto apprezzato nella mia stazione e nel mio club radio. Il mio indirizzo epistolare, scusate, è Gabriel Gomez, eccetera eccetera. Gabriel Gomez ci scriveva da Montevideo, nel bellissimo Uruguay. Assolutamente, Gabriel, ti manderò la cartolina QSL con il tuo rapporto di ricezione confermato dal sottoscritto. Veramente quest'oggi abbiamo avuto un sacco di rapporti di ricezione. Io saluto anche tutte le persone che hanno solamente ascoltato. Un saluto anche a Alberto da Firenze, che ci aveva scritto un po' di tempo fa. Caro Alberto, ho perso il tuo indirizzo email, ma spero di recuperarlo, perché ti devo inviare la cartolina QSL elettronica come avevi chiesto. Nel finale ringraziamo come sempre il nostro caro editore Jeff White per lo spazio e soprattutto voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, per aver ascoltato anche per questa volta I Love Italy, questa trasmissione che parla italiano nel mondo. Da Andy Mangiarotti è tutto. Noi cediamo la linea allo studio centrale di Okeechobee in Florida, alle porte della bellissima Miami. Ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di WRMI. Ciao da Andrea, ciao, grazie ancora, ciao, ciao, ciao. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. www.andreamangiarati.com